Quanta luna, quanta luna da cielo, ma se illumi dall'acqua stasera, è la stella d'argento vera, mentre vienta la vera viva. Quando io sento quest'aria sola, una voce da terra lontana, lenta lenta sulla laga mi impara, la ruga mi metta a luca. Tutta la vita la faccio la voce da sulla distanza, da sulla se sarà femmina, cantando all'uomo, se chiama l'ultima poi fa morire. Poca vo, ma la santa anch'io che mi protegge, mi scanta ma via. Santa Lucia, Santa Lucia. Oh, poca si vea la spenta, la patria è cantanza felice. Piccato, o cagnina, la barchetta, un uregna e la vita morita. Poca fora, la voce a croccia, chi chiami da bella, brucia bene, timpana. Di bella e nascita a farmi morire. Una voce amabile ferma per l'aria, nel lumina non mi può vendere, se c'è la ferma la cantarra brocia, se è incantata l'uomo la fare un mare. Poca vo, ma la santa anch'io che mi protegge e mi sento la mia. Santa Lucia, Santa Lucia.